con i dovuti distinguo rispetto alla nostra situazione, però anche l'Africa non è nuova a questi fenomeni. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che, nonostante una credenza ancora dura a morire in Europa, l'Africa è ormai un continente urbanizzato e abbiamo città megalopoli con molti milioni di persone, pensiamo a Lagos che supera i 20 milioni di persone, abbiamo soprattutto città che crescono ad un ritmo molto molto forte, parliamo 2,5-3%. Quindi questo significa che una città come Addis Abeba, Nairobi o Dakar ogni 2 o 3 anni aumenta dello stesso numero di persone che vivono a Bologna, per cui parliamo veramente di numeri enormi, e questo fa sì che anche fenomeni come quello della gentrificazione inizino a diffondersi sempre di più e con anche delle situazioni abbastanza estreme. Non si parla di affitti che crescono, ma di delle persone più povere che magari sono accampate anche in baraccopoli, diciamo così, che vengono letteralmente rase al suolo. Sì, questo è quello che succede molto frequentemente, quindi diciamo un aspetto della gentrificazione molto più brutale, molto più rapido, che avviene spesso anche nell'arco di una giornata o di una notte. Quindi ci sono delle sacche di città che sono rimaste non abitate, non urbanizzate, quindi spesso vengono occupate con edifici appunto autocostruiti, e che vengono poi, mano a mano che la città cresce, che queste zone diventano più centrali, diventano più appetibili, molto spesso poi vengono sgomberate per realizzare speculazioni immobiliari, molto spesso servizi di vario tipo o anche infrastrutture. È una cosa interessante del tuo articolo è che in alcuni casi, se non sbaglio quello di Sabeba, le autorità sponsorizzano poi questi processi, c'è anche un marketing su come trasformare le città con le retoriche appunto che si usano in questi casi. Assolutamente, il caso di Addis Abeba è emblematico da questo punto di vista, perché il progetto è un po' quello di fare di Addis Abeba una città vetrina anche dell'attuale regime o dell'attuale governo, e quindi il sistema delle espulsioni di massa, delle demolizioni di interi quartieri è stato, che è un sistema che già esiste a Addis Abeba da decenni, ma è stato portato all'estremo, e questo è andato a toccare anche non solo quelle che sono le cosiddette baraccopoli e quindi quartieri tra virgolette informali, ma anche dei quartieri storici della città. Il quartiere di Piazza, che era probabilmente l'unico quartiere storico di Addis Abeba, è un quartiere molto bello, di queste ville in stile indiano, di queste botteghe, un quartiere molto vivace, è stato completamente raso al suolo un anno fa per realizzare questo nuovo progetto di parchi fluviali, spazi tra virgolette pubblici. Teniamo conto che molto spesso queste operazioni di riqualificazione diventano veramente escludenti, perché un parco, come tanti ad Addis Abeba, molto spesso ha un accesso a pagamento, quindi non è un servizio pubblico. Le stesse infrastrutture in contesti come le città, in molte città africane, diventano uno strumento anche di esclusione. Parliamo di città in cui, a seconda dei vari paesi, però chi possiede un'auto è il 15-20-30% della popolazione urbana, e quindi abbattere un quartiere per realizzare una superstrada, una strada, diventa un servizio esclusivo e riservato a pochi. Ti volevo chiedere se in queste speculazioni edilizie c'è anche un fattore neocoloniale, cioè chi realizza queste opere? Varia molto da paese a paese, ci sono elementi molto interessanti. Innanzitutto dobbiamo dire che il modello urbano oggi non è più il modello tra virgolette occidentale, il modello urbano a cui si aspira, ma è più il modello urbano ad esempio dei paesi del Golfo, quindi Dubai per intenderci, e non a caso molto spesso gli investimenti in questo tipo di iniziative arrivano proprio da questi paesi, una sorta di soft power che coinvolge anche proprio il cosiddetto sviluppo urbano, che di sviluppo poi non si tratta. Ci sono poi degli attori particolari che noi facciamo fatica a comprendere, però il ruolo degli eserciti, ad esempio, nella realizzazione di questi pezzi di città, spesso è importante, sia come realizzazione pratica, sia come investitore. Se pensiamo a un contesto che non è di Africa subsahariana, ma sempre nel continente, il Cairo, l'Egitto sta costruendo una nuova capitale in mezzo al deserto, 70 km dal Cairo, e questa è interamente, l'operazione è interamente gestita dall'esercito egiziano. Quindi una situazione abbastanza complicata e anomala anche rispetto al nostro modo di intendere ruoli, di chi si occupa di città. Il tuo articolo, che ricordo è pubblicato sull'ultimo numero, quello di luglio e agosto, della rivista Africa, si chiude con una domanda a cui poi dai anche una risposta, cioè che ne è di questi abitanti originari dei quartieri gentrificati? Cosa succede loro? Questo è sempre il tema più scottante, nel senso che quando vengono lanciati questi programmi c'è sempre un po' il messaggio che il quartiere malsano, il quartiere degradato, e quindi verranno realizzate case popolari, verranno realizzati interventi di housing sociale, eccetera. La realtà è molto diversa, nel senso che parliamo di grandi numeri di persone, quindi non è praticamente mai possibile sistemare tutti quanti, e quindi cosa succede? Vengono creati degli slum, delle baraccopoli con situazioni altrettanto precarie, anzi più precarie, semplicemente in altri posti, più lontano dal centro, quindi si vanno anche a rompere quei micro equilibri di economia locale, di prossimità, che comunque in questi quartieri possono essere presenti, possono fare la differenza, e quindi l'impatto sulle persone diventa veramente enorme.